Come va? Signori, mi auguro voi apprezziate la novità. Un po' all'americana. Questo scrivetelo bene nella memoria. Arrivederci, dammi la mano e sorridi, senza piangere. Arrivederci.